Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Nel mio lavoro non chiedo mai il perché, le domande che faccio riguardano il quando, il dove qualche volta, ma sempre il quanto. Dalle liste bloccate alle preferenze sia stata una richiesta venuta in quest'aula dagli stessi che avevano considerato peraltro criminogene le preferenze, ma hanno cambiato idea e ognuno fa i conti con la propria coerenza e noi abbiamo dato il via libera su questo. Se qualcuno immagina di poter però utilizzare la legge elettorale come alibi, si sappia che noi vogliamo smontarli tutti gli alibi. Con questa libertà vi dico anche con molta franchezza che la nostra responsabilità di tenere unito il partito non può arrivare al punto di tenere fermo il paese. E per quanto mi riguarda, se un accordo vero sulle cose che si sono dette qui non ci dovesse essere, io il 4 dicembre non potrò votare quella riforma che per 3 volte ho votato nell'aula della Camera. Ma devi essere sereno, perché se a quella scelta tu mi spingerai, sarà mia cura nello stesso istante comunicare alla Presidente della Camera le mie dimissioni da deputato. Lo dico al mio amico Matteo Orfini, in questo caso, se sei il Presidente del partito e l'ex Sindaco di Roma viene assolto, la prima cosa che devi esprimere è una vicinanza e solidarietà sul piano umano. Se invece la prima cosa che twitti è che lo hai quacciato perché era un incapace, non va bene. Brividi! Non è il freddo, è la direzione del PD. Brividi! Che brividi sentire Cooperlo che minaccia le dimissioni dal Parlamento. Fatto fatica ad addormentarmi ieri, ve lo assicuro, brividi. Allora, c'è stata la scissione? Guardo Peter Bescaperge. C'è stata la scissione, Lorenzo Nespoli? Cioè, si sono divisi? No. È stallo. Alla prossima puntata, la 3847esima della telenovela PD, scopriremo. Licenziato! Vabbè, ragazzi. Sono le 6:34 minuti, vi svegliamo con questa versione Sid Viciousiana di My Way. È intonatissimo, era Sid Vicious in questa versione, bellissima. Senti un po'. Vabbè ragazzi, c'è la follia in corso, no? Ma non siamo folli solo in Italia. Sentite cosa hanno fatto quelli dell'ISIS. Quelli dell'ISIS hanno fatto una fatwa che c'è un ordine perentorio a Mosul in Iraq, e hanno stabilito che con questa legge vieteranno i gatti nelle case, andranno sterminati tutti. Loro non sanno contro chi si sono messi. Come ha detto qualcuno ieri su Twitter, ora basta una battuta contro i vegani e l'ISIS sarà spazzato via. Si sono messi contro i proprietari di gatti e forse contro i vegani ora. Devono fare quest'altra mossa e l'ISIS è finito in due giorni. Babbarie. Queste sono babbarie, diciamo. Vabbè, sinceramente. La prima un abiso, la seconda con due B. Due B, grazie De Luca, grazie. Allora, sono le 6:35 minuti, voglio subito salutare il direttorone, il direttore di oggi, Umberto Brindani. Buongiorno direttore, come stai? Buongiorno Alessandro, benissimo, grazie. Tutto a posto? Ho i brividi. Hai brividi per i gatti o per... No, per la reazione del PD, volavano i coltelli. Mamma mia ragazzi. Con queste parole... Sono cose che meno male che te l'hanno fatta ieri, così hai tempo per smontare la prima pagina di domani, eh. Sì, faccio la copertina con Cooperlo. No, speranza. A questo punto vado direttamente, vabbè. Diciamo. Sì, c'è speranza. Caro direttore, sono molto felice perché oggi finalmente l'abbiamo incastrata, l'abbiamo ingabbiata. È qui, lei non sa in che contesto si è messa, ma voglio dire, ormai il dado è tratto. Abbiamo un nuovo ingresso al Parlamento ed è Stefania Cavallaro di Studio Aperto. Buongiorno Stefania. Buongiorno Alessandro. Come buongiorno, stai? Direttore. Bene. A che ora ti svegli? Io non ho i brividi. Invece io ho caldo in questo momento. Hai caldo? Sto soffocando. Avevi sentito Cooperlo? Sono soffocanti, esatto. Tutti questi no, questi sì, questi stralci. Questi forse. È un po' come l'ennesima settimana decisiva per abolire le province. Infatti, vanno in parallelo. Ah, tra l'altro, province. Ieri si è votato per le province. Forse lo sapete, voi lo sapete sicuramente, gli ascoltatori. Ieri si è votato, non i cittadini, ma i sindaci sono andati a votare per eleggere le province. Oggi, guarda qua l'apertura del Fatto Quotidiano. Dov'è che me la son persa? Sì, neanche tutti, peraltro. No, neanche tutti. C'hanno l'astensionismo. Anche con calma, no? Prendiamocela con calma. Abbiamo tempo, in fondo non ci abbiamo perso. Eccolo qua. La prima del fatto. La barzelletta delle ex province. La riforma fallita prima del voto. Vabbè, esistono ancora. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento. Eccolo qua, apriamo il Parlamento. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, gente, accorrete al Parlamento. Allora, il nuovo ingresso è Stefania Cavallaro. A che ora vai in onda su Studio Aperto? Di solito alle 12:25. A che ora ti svegli al mattino? Alle 7. Vabbè, dai. Se non mi chiami tu alle 7. Ecco, infatti alle 7. Grande sforzo oggi. Vedi direttore, già li chiami la prima volta e ti fanno subito notare che li hai disturbati. Buttati giù dal letto. Questo è il dato di fatto. Beh, anch'io, sai, Alessandro, anch'io mi alzo alle 7. Ecco, la seconda lamentela. Ecco, no. Tu e Lorenzo Nespoli mi disturbate profondamente. Scusate se c'è un mondo che si sveglia prima. Si sveglia prima. Lamenta. Esatto. Va bene, allora di cosa volete parlare di questo Partito Democratico? Dai, diciamo due parole. Dai, Stefania, non lo so, ma tu le segui questi dibattiti? Sì, o a voglia. Sei obbligata per contratto? No, mi appassiono molto, mi ha fatto molto ridere la prima pagina del Manifesto di stamattina, che ha sparato un Renzi ha detto no. È vero, ha detto no. È arrivato anche il suo no. Esatto, il Manifesto. No, vabbè, è abbastanza agghiaggiante, come dice Conti. Più che altro perché effettivamente siamo sempre lì, da una parte tira la copertina, no vabbè, ma io non blocco il paese per tenere unito il partito, dall'altra parte sempre la solita manfrina e allora facciamo la scissione. Io sarei molto curiosa di vedere la scissione. Sì, perché anch'io. Poi alla fine al 28 del mese secondo me la scissione, guarda caso, poi non arriva. Attendo con ansia il 5 dicembre quest'anno. Veramente il 5 dicembre è una data, tu sai, Umberto, il 5 dicembre, vi devo informare di questa cosa, 5 dicembre, sai, il giorno dopo il 4 dicembre, Umberto, sai che è un momento... È il mio compleanno, ecco, volevo annunciarvi che il 5 dicembre è il mio compleanno e quindi magari succederà qualcosa sicuramente. Il paese è fermo in attesa di questo evento. Il paese è fermo in attesa di questo evento, il 5 dicembre. Comunque, guarda, ieri io mi sono voluto guardare il discorso di Renzi, no? Mamma mia. Quello di apertura. Sì. È veramente... Cioè, poi si misura lì... in diretta la distanza e la freddezza che c'è. Non c'è speranza, forse non ci sarà scissione, ma questi non riescono a parlarsi, non si fidano. Cioè lui gli dice va bene, facciamo le modifiche all'Italicum, ma le facciamo dopo. Mm. Che è un po' come sempre lo stai sereno, no? Enrico, stai sereno. Sì, è un po' quei bluff. È legato a quello e non si libererà. Ma è vero, non che saranno comunque sempre tutti sulle loro posizioni. Cioè arrivano lì solo per difendere la loro posizione, non per venirsi incontro un l'altro. Ho capito, ma a un certo punto qualcosa dovrà succedere. Come scrive oggi Iena sulla stampa straordinaria, a questo punto la minoranza ha due possibilità. O resta minoranza dentro o diventa minoranza fuori. Direi che secondo me però è tanto il gioco delle parti e tutto sommato fa comodo a entrambe le parti, perché da una parte uno fa la voce grossa però ti do il contentino, quindi dai rivediamo l'Italia con così sei contento, dall'altra loro no, stiamo scherzando, noi siamo duri e puri, noi siamo coerenti col partito, non siamo come te che sei andato avanti. Sì, ma poi alla fine dipende sempre dai voti. Cioè effettivamente se adesso sei Cooperlo, ma io non è che ce l'ho con Cooperlo, non mi ha fatto niente Cooperlo per carità, ma se si dimette o se la minoranza fa una scissione e fonda un nuovo movimento, un nuovo partito, chiamatelo come volete, poi alla fine sono... Cioè c'è spazio per un altro partito, non lo so, già siamo tripartiti. No, ma guarda, ma è possibile che questi non abbiano imparato niente dalla storia, da 50-60 anni di storia? Prima citavi il manifesto, sarebbe la 800ª scissione della sinistra, fino ad arrivare, come si dice, alla scissione dell'atomo. Ma è possibile, neanch'io ce l'ho con Speranza, con Cooperlo e con Bersani, però... Ma non gliela fanno a stare a fianco a Renzi? È uno spettacolo veramente deprimente. Però l'unico coerente, se mi posso inserire nel dibattito, è stato Civati. Civati. In tutto questo. L'unico coerente, dobbiamo rendere Merico. Che si è dimesso. Lui ha detto, vabbè signori, sapete cosa c'è di nuovo? Io continuo a parlare di scissione. Qua nessuno mi segue, fanno tutti le barricate, poi alla fine, ripeto, 28 del mese, la scissione salta sempre. E io me ne vado. Infatti in politica i risultati poi contano, adesso per carità poi quanto fa Civati? L'1% non so, lo zero qualcosa. Va bene dai, vogliamo sentire anche Grillo, ecco Grillo ieri, show di Grillo, non lo so dove fosse, ma ieri si è lasciato andare, via. A volte ci sono, sì, sembrano anche meravigliosi, senti parlare nei telegiornali, nei talk show, gli dicono, ma questo dice delle belle cose. Abbiamo questo al governo che è un menomato morale, il menomato morale è morale, non hanno morale. Vabbè. Non c'è moralità, non c'è sentimento. Due giorni fa, Grillo, sentite questa sul ponte soprattutto, non male. Perché il nostro sogno è quello che è un paese che va bene. È un paese gestito a meraviglia, dove si fanno dei ponti meravigliosi. A proposito del ponte, io lo stretto l'ho fatto a nuoto, ci ho messo 20 minuti meno del traghetto. Questo non è male, ha rimesso i panni del comico, 20 minuti meno del traghetto a nuoto. Ma te le vedi le famiglie, no, in vacanza, forza partire, non sarebbe male vedere queste grandi gare. C'è gente che poi stabilisce i record, si migliora anno dopo anno, vedi se mi sono messo in forma, se recupero 2 minuti sul giro, vabbè. Allora, signori, però qua voglio chiedervi una cosa, dai, lasciamo un po' la politica, voglio chiedervi due cose un po' popolari, tanto inutile, non fate quelli che non ve ne occupate. Fabrizio Corona, lo sapevo che bisognava. Sai perché? Va bene Cooperlo, va bene Speranza, va bene Bersani. Ma si deve occupare insomma, alle 6:44 del mattino lasciatemi parlare un po' di Fabrizio Corona, dai. C'è ancora l'apertura del Corriere.it. Esatto. Da che parte state? Perché il paese si divide in gente a cui non frega niente, e sono tanti, e poi gente che sta con Corona e gente che dice no, basta, ha rotto le balle. Questo è... Stefania, tu che dici? Però tu qua mi tocchi nel cuore, perché sai che Corona è stato uno dei personaggi cardine di Lucignolo quando noi si departe facevamo... No, pensavo avessi avuto una storia con Corona. Cioè, mia. Per carità. Vabbè, va bene tutto. No, c'ha troppi tatuaggi per me, un po' troppo stampato. Anche perché, non so se ti ricordi, la scena del mutante, la sì. famosa scena delle sì. mutande, che lanciava le mutande alla sì. finestra quando fu diciamo, fermato all'inizio, cioè lui e i Beatles top. Insomma cioè, guarda, io mi ricordo, allora noi c'eravamo in quella scena, cioè in quel momento lì, ed eravamo sotto il suo balcone che raccoglievamo le mutande di Corona. È incredibile, cioè tu hai a casa una mutanda di Corona? No, questo. Io personalmente no, però ci sono leggende metropolitane su chi detiene questo tesoro che vale tantissimo, ovviamente è un pezzo di storia. Vabbè, quindi si sa, tu ce l'hai un po' nel cuore, non puoi dire. Però devo dirti che, voglio dire, davanti a quella scena noi dovevamo sapere già come sarebbe andata a finire, perché lui ha sempre fiutato, di fronte alla magagna ha sempre trovato il dito. E anche stavolta è riuscita a fare la stessa sì, il business in nero pare. Direttore, qua vabbè, insomma, Stefania Cavallaro si sa, ha un po' il cuore spezzato nel confronto di Fabrizio Corona, non ne può dire che è bene. È incorreggibile. È un ragazzo così, ragazzi. È un burlone, sono ragazzi, Brindani qua. Io purtroppo conosco bene Corona da una dozzina di anni, da quando faceva l'agente di fotografie, cercava di vendere fotografie. L'idea che mi sono sempre fatto è che lui è molto più furbo che intelligente, e in realtà lui è stato ed è un grande piccolo truffatore, insomma, più che un estortore, ed è un truffatore purtroppo abituale, come l'hanno definito i magistrati proprio ieri, insomma, un delinquente professionista, diciamo. Pensa che ieri pomeriggio facevo la copertina. Ho messo in copertina uno strido piccolo su Corona che rischia di nuovo il carcere. Poi a metà pomeriggio ho dovuto cambiare lo strido piccolo. Vedi che la direzione del PD, quindi ieri è un disastro, la direzione del PD ti ha fatto proprio cambiare totalmente la copertina. Poi arriva Corona, adesso c'hai una copertina per domani o oggi te la dobbiamo rovinare alle 2? Non lo so. È già fatta, ma si può dire oppure... La copertina non è Corona, la copertina è il grande ritorno di Eter Parisi. Che oggi alle 2 annuncerà che non ritorna più, perché ha deciso che si scinde dal PD, anche lei. Ah, fantastico. Però posso dire che un po' il karma gli si è ritorto contro, Fabrizio, perché... Avete visto che tutto questo casino, questa nuova indagine è nata per un petardo che è esploso davanti a casa sua? Sì. No, perché tra l'altro questa indagine è nata perché lui era intercettato in quanto potenziale vittima di una... E poi parlando, insomma, come dire, ha detto qualcosa su qualche milioncino dietro qualche muro, così murato, e vabbè, e lei da possibile vittima di qualcosa è passato dall'altra parte. Allora devo andare al traffico, state con noi. Milan, a me non interessa il traffico, mica il tuo pal. Oh Milan, ma cosa dobbiamo dire di De Luca? E sei bellino te, sei bellino. Ma sulle storie di Trump, secondo voi, solo perché è una cosa vecchia di 10 anni, lui secondo voi ha cambiato completamente il modo di pensare sulle donne? Ciao Milan, D'Alema, Bersani e Marino votano no al referendum del Renzino. All'interno del PD che grossa bega, ma noi diciamo, e chi se ne frega? He's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. Così De Niro, il grande Robert De Niro, parla di Donald Trump, un maiale, un cane, un disastro. Lo prenderei a pugni. Oh mannaggia, cara Stefania Cavallaro, caro Umberto Brindani. Allora, e l'ha mollato pure lo speaker, pure Paul Ryan ha detto basta. Ma è un disastro. Ma tu da donna, ti sembra un vecchio porcellone che non vorresti mai vedere tuo presidente se fossi in America, oppure si sa che è così? Dai. Allora, oddio, passare da Barack Obama a Donald Trump, parliamo solo dell'aspetto fisico, parliamo solo dell'estetica. Insomma, non è un bel salto, sì. Quindi, diciamo che l'aspetto non lo aiuta. Ma ti dà fastidio questo suo modo di esprimersi in privato, per la verità, però sì, no, assolutamente, molto grezzo. Sì. Cioè, comunque, e mi pare anche abbastanza improbabile, però su questo gli americani sono bravissimi, mi pare strano che tutto questo super polverone, questo ciclone che lo sta travolgendo sui suoi apprezzamenti sessuali, adesso, anche perché si sa che in campagna, cioè, pensa che è del 2005, chissà da quanto se lo tenevano lì pronto questo nastro, no? però secondo me ha fatto un errore strategico, perché avrebbero dovuto fargli terra bruciata sin dall'inizio con un messaggio del genere, mentre invece adesso comunque uno zoccolo duro che lo vota, lui lo ha conquistato, lo ha portato a casa, cioè, gli hanno dato un margine. Il problema è che si sta perdendo persone del suo stesso partito, anche le donne, non lo so, Brindani, siamo tutti un po' moralisti, come dice Trump, dei moralisti, guarda, io ipocriti. Sono d'accordo con Stefania, perché adesso si parla del fatto che i sondaggi danno Hillary Clinton vincente, no? Sì. Però poi alla fine i sondaggi, credo anche in America, alla fine bisogna prenderli con grande attenzione, perché l'America profonda sta succedendo e succederà, secondo me, con Trump quello che in parte è successo con Berlusconi, cioè che gran parte delle cose che sembravano ritorcerglisi contro, in realtà poi non fanno che confermare il suo elettorato sul fatto che bisogna votarlo, perché quella che noi chiamiamo la casta, cioè quello che in America possiamo chiamare l'establishment, alla fine non convince e rischia di non convincere la maggioranza degli elettori, quindi rischiamo davvero di averlo vincente nonostante il video, nonostante le frasi sessiste e quant'altro. No, ma insomma, che fosse così già si sapeva, quindi bisogna vedere quanto questi audio di 10 anni fa possono convincere qualcuno a scoprire che è così, quando in realtà è uno che dice: mia figlia, se non fosse mia figlia ci uscirei insieme, tanto è figa, cioè, capisci? Mamma mia, a proposito di figli, voglio chiudere con questo. Io so, Stefania, tu sei mamma, giusto? Sì, li porti sì, anche a scuola, fai parte di queste chat terribili. Guarda, sai, parte di queste chat terribili. Una discussione ieri, mamma adesso mia, tra genitori. Sui cartoncini che anziché essere colorati erano bianchi. Capisci? Indicazione della maestra. No, guarda, ragazzi, oggi Repubblica fa un'intera pagina, fa bene, con i presidi che si scagliano contro i genitori e queste chat su WhatsApp, le chat di classe che diventano a volte dei tribunali. Gente che vuol sapere chi ha portato i pidocchi a scuola, lo dica chi ha portato i pidocchi, e ci sono cose peggiori, insulti, quel maestro non sbaglia. Vabbè, dai, il solito discorso, cioè, se usata con parsimonia utilissima, ma certo, per le mamme che lavorano, ma 30 ragazzi, persone non la utilizzano con parsimonia. Non la utilizzo. Meno male, Brindani, tu non ne fai parte di queste chat. Non... No, guarda, è la maledizione dei social network. Chiudiamo i social network, così non avremo più a che fare con Brunetta, perlomeno. No, proprio oggi che non ho il Brunetta del giorno, me lo chiami. Non ho il Brunetta del giorno da farmi sentire. Sono anche un po' preoccupato. Come mai non abbiamo un Brunetta del giorno? Porca, c'è Lorenzo Nespoli, dice: come, ieri non ha dichiarato nulla Brunetta? Non è possibile. Vabbè, non abbiamo il Brunetta del giorno. Mi devo fermare, Umberto Brindani, domani in edicola con oggi. Stefania Cavallaro, studio aperto, vi raccomando. Stefania, ti sei divertita? Sono cavoli tuoi. Sono cavoli tuoi, adesso ti richiameremo. Sono cavoli tuoi. Vi ciao, mando un grosso abbraccio. Ciao. Renzi e Letta, chi cede? Com'è? Tra Renzi e Letta, chi cede? Chi è Letta? Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. È arrivato Milana Lino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 7:20 minuti, cari signori, siamo pronti alla lettura dei giornali in quella che è la rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo, cari tutti? Ci siamo? Forza, andiamo. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. E in realtà sanno di che parlare, l'apertura è quasi unanime sulla questione del PD, a parte altri quotidiani come il Sole 24 Ore che apre sulle pensioni, bonus alle imprese per finanziare l'anticipo APE, queste sono le novità, in arrivo una detrazione fiscale per agevolare il turnover. Ma appunto la direzione del PD, i litigi, eccoli qui, la carrellata di titoli per il Corriere della Sera, referendum PD senza accordo, per Repubblica la minoranza PD, votiamo no, la Stampa, riforme, fallisce l'intesa nel PD, per il Messaggero è paralisi nel PD, Libero, rissa da bettola nel PD, il Giorno, Renzi apre, il PD si spacca, Avvenire, cambia l'Italicum, non la lotta nel PD. L'Unità, Renzi, no alibi, cambiamo l'Italicum, mentre il Manifesto mette lo stesso Renzi con il titolo molto evocativo, ha detto no, con un no gigante. Le aperture diverse le vedremo tra poco, ma come vedete la notizia più importante è la spaccatura all'interno del Partito Democratico, ma voglio partire da lui. Dai che lo attendete, lo so, non fate finta. Le notizie sul nuovo arresto di Fabrizio Corona, con un altro milione nascosto in Austria, perché pare che non ci sia solo il milione e rotti e 700 mila euro già sequestrati venerdì come misura di prevenzione e murati dietro una parete, ma pare che ci sia un altro milione di euro trovato in conti in Austria, che ha portato di nuovo in carcere Fabrizio Corona con l'ipotesi di reato di intestazione fittizia di beni sottratti alla Atena SRL, di cui sono soci madre e fratello. Cioè, tra l'altro appunto alla società della madre e fratello, ma insomma soldi in nero. Comunque, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, il principale nemico di Corona, come confermano anni di guai giudiziari, è Fabrizio Corona, che ieri scopre di essere stato lui stesso a spifferare agli inquirenti senza accorgersene il nascondiglio di 1.700.000 euro in contanti che teneva murati nel soggiorno della sua collaboratrice Francesca Persi. Questo perché, come racconta il Corriere della Sera, lui era intercettato come possibile vittima di una richiesta di estorsione di 50.000 euro rafforzata da una bomba carta sotto casa il 16 agosto. Dunque, lui era intercettato in quanto possibile vittima, ma parlando al telefono, raccontando con la sua collaboratrice di una strana visita di ladri in casa della collaboratrice, dice: hanno preso, hanno spaccato i muri, hanno trovato... E qui gli inquirenti hanno capito che c'era qualcosa da cercare nella casa, hanno trovato i soldi in nero e da lì, da potenziale vittima, è diventato indagato lui e finisce nuovamente in carcere. Il giudice di sorveglianza sospende l'affido terapeutico e Ale si riparla di Fabrizio Corona con gli italiani che si dividono. Ci sono anche quelli a cui non frega nulla, mi rendo conto, non fate quelli che proprio non ve ne frega nulla, dai che poi una sbirciatina anche voi la date a questi titoli. C'è Lele Mora che viene intervistato dal Messaggero e dice: lui è malato di soldi, andrebbe curato, deve sempre fare soldi e più ne fa più ne vorrebbe. Ho conosciuto un altro Fabrizio Corona nel 98, poi non è stato più lui. Quando ci si monta la testa si distrugge tutto ciò che si è creato. Dice Lele Mora: io non lo sento più, non mi è consentito, visto che sono affidato ai servizi sociali, ma meglio così, non sento neanche la sua famiglia, ho abbandonato quel mondo lustrini e paillette, figuratevi che non guardo neanche più la televisione. Così Lele Mora, che sta scrivendo un libro sulla sua vita, udite udite, di 2.500 pagine. E che è? 2.500 pagine, manco Gandhi. Lele Mora, va bene, sul Messaggero. Lasciamo Lele Mora, prima però vi dico che secondo la Stampa, Fabio Poletti, a pagina 15 c'è anche una dichiarazione attribuita a Fabrizio Corona poco prima dell'arresto. Dopo 10 anni di incubo, di nuovo sono stanco, non ce la faccio più, mi fate almeno vedere mio figlio, questo avrebbe detto ai carabinieri che sono presentati per l'arresto. Comunque, tradito dal tesoro nel controsoffitto Fabrizio Corona. Lasciamolo ai suoi guai e Per quel che riguarda gli immigrati, vi faccio notare e vi segnalo due articoli. Il primo è sulla Stampa, sono ben due pagine e si concentra la Stampa, con Flavia Amabile, su una regione che va un po' in controtendenza. È la Basilicata, è l'eccezione Basilicata, come scrive la Stampa. Dateci più migranti. La Basilicata punta sull'accoglienza. Quando si parla di migranti da accogliere in Italia ci sono regioni del tutto contrarie e poi c'è la Basilicata. L'accoglienza, noi abbiamo deciso di cambiare passo, spiega il presidente della regione Marcello Pittella. Il governo ha assegnato alla regione la quota di 1000 migranti, ma Pittella dice datecene il doppio. Possiamo accoglierne anche 2000. Nasce così, la Stampa lo racconta, il miracolo della Basilicata, regione dove sui migranti le cifre raccontano un vero e proprio boom. 2.240 richiedenti asilo in tutta la regione, di cui 185 minori non accompagnati, oltre 44.000 migranti hanno un lavoro, al 90% di loro c'è un contratto, oltre la metà lavora in agricoltura. Insomma, gli stranieri rappresentano il 13% circa della forza lavoro totale, cioè più di un lavoratore su 10 è straniero. E questo racconta la Stampa. Nello stesso giorno c'è questa vicenda sul Secolo XIX invece che crea polemiche. Calizzano è un piccolo paese in provincia di Savona, dove nella Val Bormida, dove sale la tensione perché il sindaco Pierangelo Olivieri ha stabilito quanto segue: i profughi di quella cooperativa non usino gli autobus degli studenti, perché c'è stato qualche episodio, soprattutto nei confronti delle studentesse, che non è stato gradito al sindaco. Bruno Lugaro lo racconta sul Secolo XIX: gli studenti su un autobus, i migranti su un altro, mai più viaggi insieme, perché i primi si sentono minacciati dai secondi. E qualche screzio c'è stato davvero. Nulla di grave, ma tant'è, i torpedoni del mattino non vedranno più profughi. Così ha deciso Calizzano, paese valbormidese di poche centinaia di anime. Anzi, così ha deciso il suo sindaco, l'avvocato Pierangelo Olivieri, d'intesa con la cooperativa Il Faggio, che gestisce 40 profughi ospiti di un albergo. Abbiamo ottenuto l'impegno da parte della cooperativa a sensibilizzare i loro ospiti affinché evitino, se non necessario, di utilizzare le corriere delle 6.30 e delle 6.45, indirizzandosi verso i pullman successivi. Insomma, non utilizzino gli autobus degli studenti. Questo è un po' il problema che anche sulla Stampa viene ripreso: non pagano e disturbano le ragazze. Oh, questo è un articolo che mi ha molto colpito su Libero. So, magari oggi volete mangiare pesce, cioè venerdì pesce, martedì va bene, martedì pesce, si può dare lo stesso mangiare del pesce. Mi ha colpito questo su Libero: il prezzo del pesce. Claudia Osmetti lo racconta in prima pagina, una denuncia della Coldiretti. O meglio di Impresa Pesca, l'associazione della Coldiretti che si occupa di controllare tutte le questioni legate alle nostre acque. Sapete quanto pagano, questa è la denuncia, quanto pagano il pesce ai pescatori? Non so, le triglie 10 centesimi al chilo, le gallinelle 50 centesimi al chilo. Noi le triglie le paghiamo come minimo una decina di euro, fa sapere Libero. Non parliamo di quanto ci costano se le prendiamo al ristorante, ma il guadagno dei pescatori è davvero minimo. Eccolo qua, il pesce vale 10 centesimi al chilo, ma a noi costa 10 euro. Il prezzo ai minimi storici, i pescatori costretti a svendere per non perderci, ma gli speculatori fanno aumentare i costi e le nostre tavole parlano sempre di più straniero. Questa poi è la denuncia della Coldiretti. La trovate in prima pagina su Libero e mi ha colpito. Mentre eccoci qui, questo è il premio di oggi. Mani sul volante se siete alla guida e tutti gli oggetti contundenti come al solito a colazione abbandonateli per un attimo, soprattutto i coltelli, perché siamo sulla prima pagina del giornale. È l'apertura del giornale, è il titolo di prima pagina, che si concentra sulla riforma Madia e la lotta ai furbetti del cartellino. I furbetti del cartellino pagati per stare a casa. Nino Materi racconta sul giornale. Il giornale ha fatto un'inchiesta dei 449 assenteisti scoperti da quando è in vigore la riforma Madia. Ricordate, non so, il dipendente comunale di Bosco Trecase con la scatola in testa, opera d'arte surrealista quasi, racconta il giornale. Oppure l'assenteista che alza il dito medio davanti alla telecamera. Benvenuti nel fantastico mondo dei furbetti del cartellino, che dal 13 luglio dovevano essere licenziati entro 48 ore. Ma i dati raccolti dal giornale da metà luglio a oggi dimostrano che la tanto decantata stretta antifurbetti non solo non c'è stata, ma rischia di peggiorare una situazione già di per sé vergognosa. Negli ultimi due mesi sono stati mascherati 450 assenteisti, smascherati. Tutta gente che nelle fatidiche 48 ore di renziana memoria sarebbe dovuta essere messa alla porta. E invece molti hanno fatto ricorso. Molti sono a casa con metà dello stipendio. Molti verranno probabilmente riassunti e risarciti. Questo racconta il giornale secondo i dati raccolti. Ricordate per esempio il mitico, mitologico dipendente di Sanremo che beggiava in mutande? Ebbene, il giornale lo va a scovare. Timbrava in mutande, ora fa l'artigiano aggiustatutto nella sua bottega. Alberto Muraglia, attaccato alla divisa al chiodo, dice: resto al servizio della gente che gli porta chi un frullatore, chi un elettrodomestico, chi una TV da sistemare. E lui, da assenteista, racconta il giornale, è diventato staccanovista e nella sua bottega mette un po' a posto tutto. Comunque, eccolo qui sul giornale: altro che licenziati, i furbetti del cartellino incassano mezzo stipendio per non fare nulla. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alino, leggi anche il Carlino. Va bene, l'edizione al giorno, va bene, no? Il giorno, l'edizione, diciamo, del Nord. Allora, cari ascoltatori, il Partito Democratico, le risse, le spaccature, anche in realtà non c'è stata nessuna scissione, ma come raccontano tutti i giornali, questo è il tema politico del giorno dopo la direzione del PD. Marco Galluzzo racconta sul Corriere della Sera, pagina 2, poteva essere la direzione della scissione, la riunione del PD con tutte le sue contorsioni, il dibattito, qualche parola grossa, produce alla fine una situazione di stallo ma evita la spaccatura definitiva. Però Renzi ha fatto la sua proposta, Cuperlo e Speranza, esponenti della minoranza, l'hanno criticata in modo aspro, alla fine l'hanno bocciata. Non c'è una chiusura definitiva di porta, ma difficilmente si sarebbe potuto fare ieri sera. Gli spiragli possibili sono iscritti nel tono della riunione. Renzi lo dice apertamente: non possiamo tenere fermo un paese per tenere unito il partito. La scelta delle parole non sempre all'insegna della moderazione, le ragioni della maggioranza, della minoranza, sono anche allucinazioni, fanatismo, alibi. La proposta, 4 punti di apertura sull'Italicum da esplorare in concreto dopo il referendum, sembra tenere aperto un filo sottilissimo di dialogo, ma la minoranza non partecipa, sembra e viene presa come un bluff e dunque la possibile rottura. I retroscena, come sempre, sono più interessanti su questo tema degli articoli di cronaca. Secondo Maria Teresa Meli, a pagina 5 del Corriere della Sera, la situazione e la sensazione del premier Renzi è questa: la soddisfazione, se rompono la colpa è loro. Addirittura sul Messaggero si parla di un Renzi sicuro. Guardate qui il retroscena sul Messaggero di Nino Bertoloni Meli a pagina 3. Ma non vedete che hanno già pronto il logo per il no al referendum? Ha fatto notare Renzi ai quanti dei suoi spingevano per un accordo con la minoranza. Mentre si facevano appelli all'unità c'era già chi prevedeva il logo democratici per il no. Ed ecco allora che Renzi dice: vogliono la scissione, hanno pronto già anche il simbolo. E la paura della scissione, anche il titolo di Goffredo De Marchis nel suo retroscena a pagina 3. Si capirà molto guardando la grande piazza convocata a Roma da Renzi il 29 ottobre. Piazza dove si parlerà di Europa, di riforma costituzionale e dicono dalla minoranza: se è una manifestazione del sì come credo, noi non andremo. Insomma, la situazione è di grande tensione, la parola più evocata oggi sui giornali è scissione e tutti guardano al 5 dicembre, voto il giorno dopo il referendum, come possibile punto di rottura. Come al solito è graffiante, Iena a pagina 3 della Stampa sul PD. A questo punto la minoranza ha due possibilità: o resta minoranza dentro o diventa minoranza fuori. Tra l'altro c'è un grafico pubblicato da Libero che è illuminante, io l'ho messo sul mio profilo Twitter Alino Milan, se volete andare a vederlo. La sfida nel partito: ci sono delle bolle che rappresentano le varie anime del PD, ce ne saranno almeno 25. L'area contro Renzi, gli attendisti, l'area Forza Renzi con Del Rio, Guerini, Serracchiani, Martina, Boschi, Napolitano, Orfini. Gli attendisti sono Rosato, Franceschini, Padoan, Calenda, Zanda, Mattarella. Mattarella? Come Mattarella? Messo anche il Presidente della Repubblica. L'area contro Renzi, Bersani, Prodi, Speranza, Bindi. C'è da perderci, farci venire una nevralgia, la solita nevralgia mattutina dalla lettura dei giornali. Vabbè, andiamo avanti. In tutto questo, sul referendum scrive anche Beppe Grillo, che ogni tanto si affida a questo Beppe Grillo e il suo neurologo, pubblicato dal Fatto Quotidiano. E Beppe Grillo dice: avete presente la storia dell'asino di Buridano, storia molto nuota. Se un asino si trovasse tra due balle di fieno perfettamente identiche, poste esattamente alla stessa distanza da lui, potrebbe essergli impossibile decidere da quale parte andare, sino a rischiare di rimanere immobile morendo alla fine di fame. Si intende che l'impossibilità di prendere una decisione dipenderebbe, oltre al fatto che le due balle di fieno sono identiche, da un'altra questione. Immaginiamo l'asino in preda alla cosiddetta ragion pura, l'uso della mente logica secondo la quale lui non può decidere perché le due alternative sono identiche. Ecco, quando vi dicono di votare con la testa, stanno chiedendovi di essere esattamente come l'asino di Buridano, scrive Beppe Grillo. Lo fanno perché presumono che andrete nel pallone, perché vi considerano come quell'asino, incapaci di decidere, pronti a seguire la prima pacca sulla spalla, il primo triste sogno di una pensione che un giorno pagherete a rate. Improvvisamente vi chiedono di utilizzare la testa. Ci vuole un gran coraggio a uscirsene fuori in quel modo, perché se utilizzassimo davvero la testa ogni volta che ascoltiamo il nostro Presidente del Consiglio, l'unica conclusione logica che dovremmo trarre, scrive Grillo, sarebbe di non dargli assolutamente retta. Così, dal momento che moltissimi hanno perso il filo delle disquisizioni immaginarie riguardo una riforma della Costituzione fatta dai peggiori della classe, io vi ricordo solo una cosa: non fate la fine dell'asino di Buridano. Non dovete mai morire o spegnervi nell'indecisione. Chiedetevi prima se vi fidate di quelle persone e se vi fidate se dareste i vostri risparmi in mano a Verdini o a Renzi oppure al padre della Boschi, forse potreste votare sì. Se la testa non risolvesse perché è diventata una mission impossible, non resta che assumersi la responsabilità di una scelta di pancia. Così Beppe Grillo nel suo dialogo con il suo neurologo pubblicato sul Fatto Quotidiano. Oh, le province, guarda qua chi ti rispunta. La città metropolitana, le province che sono state annacquate. Si è votato per le province, lo sapete? Visto che non siete andati a votare voi, sono andati a votare i sindaci, elezioni di secondo livello, e le città, risultato, tra l'altro non tutti i sindaci, si fa notare che in alcune province c'è stato dell'assenteismo. Ma come? I politici che non vanno a votare. Ah, vabbè. Comunque, il vero problema è che c'è, siccome c'è una legge elettorale di secondo livello senza premio di maggioranza, succede che, non so, a Roma, dove Virginia Raggi è anche sindaco della città metropolitana, non avrà una maggioranza di consiglieri dalla sua parte, perché l'elezione di secondo livello ha dato vita, per esempio nei capoluoghi governati dal Movimento 5 Stelle, Roma e Torino, ha un consiglio così composto: a Roma 24 seggi, 9 ai 5 Stelle, ma 8 al centro-sinistra e 7 al centro-destra. Quindi se si mettono insieme centro-sinistra e centro-destra hanno più voti di chi di fatto è il presidente di turno. A Torino invece il centro-sinistra è primo partito e supera addirittura con 8 consiglieri a 7 il Movimento 5 Stelle. Grazie al seggio automatico della sindaca Appendino pareggiano 8 a 8. Il centrodestra tre poltrone e dunque c'è questo anche rischio di stallo. Quindi non solo ci sono e sono state solo annacquate, non solo si è rivotato ma voi manco avete votato, ma c'è anche stallo in alcune delle province perché non c'è la maggioranza. Insomma, meno male che Mauro Meazza avrà votato, lui solito privilegiato, vero Mauro? Ma certamente in qualità di sindaco di non so che cosa, forse del mio condominio, ma anche... non... nemmeno di quello. Ma parlo di condominio perché naturalmente oggi è martedì. Si sa. Come sai, il martedì su Sole 24 Ore trovi nella parte di norme e tributi la pagina dedicata al condominio. Certo. A questo proposito, segnati la data del 25 ottobre. Eccola qua. Perché ci sarà, il 25 ottobre, che sarà un martedì di nuovo, ci sarà un condominio day, cioè una giornata in cui sarà possibile inviare delle domande, ottenere delle risposte in diretta dagli esperti sulla materia. Sai che il condominio è sempre una materia che è molto molto ricca di spunti e di domande. Discussa, molto discussa, diciamo. Ecco, poi oggi nella pagina di condominio, tra le altre cose, parliamo anche del contratto del portierato, cioè come il contratto, visto che il Nobel è andato a degli studiosi, Nobel per l'economia, studiosi di contratti, ecco, mi sembra che siamo in perfetto tema. Oh, siamo quante settimane decisive per le province? Scusami. 180, questa è la 180esima. 180esima, ecco, questa invece sarà probabilmente la settimana decisiva, ma per davvero, per i nostri conti, caro Alessandro Milan, perché... Cioè i miei, i tuoi? No, i conti italiani, no, non sei italiano, hai preso una diversa nazionalità. No, pensavo il mio e il tuo, i conti. No, ma figurati. Allora, perché per i nostri conti, leggi a pagina 3, ci sono queste ultime messe a punto, si aspetta di andare a Bruxelles a negoziare su questo deficit 2,3-2,4%, vediamo che cosa ci concedono, e poi ci sarà una detrazione fiscale per le imprese che finanziano l'APE, l'anticipo pensionistico, ieri abbiamo parlato a lungo di pensioni, trovi tutto a pagina 3. Per i conti invece, diciamo, degli altri, ma sempre europei, ti informo che, come puoi leggere a pagina 25, oggi è stato erogato un altro 1,1 miliardi alla Grecia, perché la Grecia, sai, ne parliamo meno, ma sempre hanno un certo stato di bisogno. Articolo da meditazione sul petrolio che tocca i $54, è una notizia da meditare questa, ma ti racconta tutto Sissi Bellomo nelle primissime pagine del Sole. Invece oggi giornata decisiva per il decreto legge per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, ancora a pagina 3 del Sole 24 Ore. Hai preso i tuoi diritti in edicola? Come no? Non ti richiedo al bar come al solito, eh? No, meno male, non venire a pietire i tuoi diritti. Tra l'altro oggi è l'uscita per il risparmio, quindi i tuoi diritti quando ad esempio sei in trattativa o in discussione, che so, con il tuo gestore, magari, ecco, non so se abbiamo trattato a dovere i gestori esteri di quei paradisi che frequenti tu, di quei paradisi fiscali che frequenti tu, però trovi comunque un primo abbozzo di questa parte, poi naturalmente dovrai approfondire con il tuo fiscalista di fiducia. Ti voglio segnalare in ultimo, se ti faccio una domanda, hai già seguito su Twitter Foto Peter? L'ho fatto proprio oggi, ecco. Grande, vogliamo lanciare questo Foto Peter, scritto Foto Peter, indovinate un po' chi è il nostro Peter. Esatto, annunciamo questo concorso. Sai che ha due follower, siamo io e te per ora. No, vabbè, ma noi cominciamo a dirlo, Foto Peter con la F iniziale, mi raccomando. Foto, sì, non PH, Foto Peter. Foto Peter, seguitelo su Twitter, vi regalerà grandi sorprese. Pensa che pensino gli ascoltatori a chi mai potrà essere questo Foto Peter, mentre ascoltano il traffico. Alessandro Milan, il Woody Woodpecker del giornalismo italiano. Eccolo qua. Allora, è successo il putiferio. Eravamo a due follower prima del traffico, Foto Peter. Tra l'altro mi scrive l'ascoltatore, non trovo Foto Peter con la I. Foto Peter, Peter. È il nostro Peter Bescapeto. Vi regalerà grande soddisfazione. Siamo a 183 follower durante il traffico. È un po' di pubblicità, una saccocciata di pubblicità, quella non si nega mai. Allora, 183, caro Mauro Meazza, caro. Però noi siamo i primi due follower di Foto Peter, che trovate così con la F iniziale su Twitter. Va bene, dai, andiamo avanti. Intanto parliamo di Donald Trump. Allora, ieri abbiamo parlato di questo dibattito. Trump, che racconta Marco Valsania da New York per il Sole 24 Ore, ha resistito in TV ma crolla nei sondaggi. Pensate che anche il presidente della Camera, Paul Ryan, che è un repubblicano, lo scarica definitivamente. è il principale leader repubblicano, è lo speaker della Camera, terzo in linea per la presidenza degli Stati Uniti, e ha rotto con Donald Trump. Non farà campagna per lui, né lo difenderà, anche se formalmente non ha ritirato l'appoggio alla sua candidatura alla Casa Bianca. Ha detto però a tutti i parlamentari del partito, fa sapere Valsania, che devono ritenersi liberi di agire come meglio credono nei confronti di Trump. Insomma, è una situazione in cui lo stesso partito repubblicano, almeno in alcuni ambienti, sta scaricando Donald Trump, che a questo punto si trova in una corsa sempre più in salita nei confronti di Hillary Clinton. Però è chiaro, questi sono i pezzi del partito. Bisogna vedere poi il paese, gli Stati Uniti, gli americani, come voteranno. Anche, pensate, Arnold Schwarzenegger, che prima attore, poi governatore in California, in qualche modo prende le distanze, come scrive il Corriere della Sera, da Donald Trump. Pure io ho molto peccato, ma rispetto tutte le donne. Terminator si chiama fuori, racconta Giovanna Grassi da Los Angeles. Anche lui prende un po' le distanze da Trump. In Germania invece è rientrato l'allarme per questo ricercato dell'ISIS. È un profugo siriano, presunto terrorista, si chiama Jaber al-Bakr, ed è stato tra l'altro fermato da due profughi. Questa è una notizia che in Germania è molto diffusa e molto commentata. Tonia Mastrobuoni racconta che questo siriano, che stava, secondo gli inquirenti, preparando un attentato in grande stile, e quindi un attentato molto molto pericoloso ovviamente per la sicurezza dei tedeschi, è stato braccato per giorni, poi si era rifugiato in casa di altri siriani che, appena hanno saputo che era ricercato, lo hanno denunciato, lo hanno legato e hanno chiamato la polizia. E quindi c'è un aspetto, come dire, che fa molto discutere, sia del profugo che si trasforma in potenziale terrorista, sia degli altri profughi che però l'hanno fatto arrestare invece di dargli rifugio. E questo è la notizia, sicuramente questa è la notizia più importante che c'è in Germania su questo tema. Vogliamo andare a cose un po' più di colore? Vi regalo questa. C'è una pagina di Repubblica di Tiziana De Giorgio, lo so perché riguarda milioni di italiani che ci stanno ascoltando in questo momento, che fate parte di qualche chat su WhatsApp. Ne in particolare ci sono i presidi che si stanno cominciando a lamentare sempre più rumorosamente nei confronti dei genitori che hanno queste chat di classe nelle quali dicono di tutto, a parte perdere del gran tempo. Guardate, ci sono anch'io, ci sono... Vabbè, dai, non commentiamo. Ma comunque le scuole avvertono: mamme, papà, basta WhatsApp, l'alt dei presidi alle chat di classe che spesso si trasformano anche in tribunali improvvisati. Gente che vuol sapere chi ha portato i pidocchi a scuola. Chi è quel bambino che ha portato per la terza volta a scuola i pidocchi? Lo dica! Si dichiari, si autodenunci, oppure insulti ai maestri, oppure ma tu come va, col maestro di matematica ti trovi bene, col professore di inglese che ne dici, secondo te sa l'inglese, non sa, e grandi dibattiti e 45, 50 commenti su WhatsApp. C'è una soluzione molto semplice: tiratevene via, tiratevene fuori, non partecipate. Eccolo qua, lo faccio vedere anche in diretta sul mio profilo Facebook, A proposito di social, siamo alla carta costa. Oggi, non avendo il brunetta del giorno in audio, la diamo all'articolo di Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Grande interista, grande abbraccio a Tommaso Labate. Ovviamente un abbraccio da tipo boa constrictor, si sa, essendo lui interista. Brunetta, lo stacanovista anti-PD, twitto finché crollo. Brunetta che twitta, lo vedete lì che twitta, twitta ovunque contro il PD. L'altro giorno dice: ho twittato in macchina, non si fa, vabbè, ma probabilmente non guidava lui, e ho twittato anche dal camerino contro il PD. Ma chi se ne frega!